Italia in controluce. È il 9 luglio ed è il pomeriggio di Radio 24 Italia in controluce con Daniele Biacchesi. Che cosa sta accadendo a Milano, al Pirellone, la sede della Regione Lombardia? La giunta guidata da Roberto Formigoni è da mesi nel mirino dei magistrati. Molte sono le inchieste aperte, l'opposizione ma anche pezzi consistenti della società civile lombarda chiedono le immediate dimissioni di Roberto Formigoni e la Lega potrebbe staccare la spina alla giunta di Formigoni da un momento all'altro. Sentiamo il reportage di Anna Marino. Regione Lombardia sotto i riflettori. Si apre il dibattito sulle prospettive politiche, spinto dai fatti di attualità. L'ultimo in ordine di tempo, la vicenda che riguarda il governatore della Lombardia, Roberto Formigoni. Scoppiata del tutto dopo un articolo del Corriere della Sera che riportava una notizia secondo la quale il governatore sarebbe indagato per concorso in corruzione e finanziamento illecito della campagna elettorale. Notizia che il governatore lombardo ha smentito il giorno stesso in conferenza stampa, puntualizzando la sua decisione di non fare un passo indietro. La cosa è semplice, non ho nessuna notizia di questa indagine. Quindi la realtà è questa: colui che per il Corriere della Sera è indagato con delle accuse che vengono anche specificate, non è per nulla informato di tutto ciò. Voi sapete che cosa questo significhi? Significa che la notizia è ad oggi destituita di fondamento. La mia idea è sempre quella. Io non mi dimetto perché le cose che mi sono contestate sono insussistenti. Formigoni, si dice sicuro, andrà avanti a governare la Lombardia fino al 2015, poi si vedrà, e giorno dopo giorno continua a smentire la presunta richiesta della Procura di Milano nei suoi confronti. Il PDL fa quadrato intorno a lui, invitandolo ad andare avanti fino alla fine del mandato, scommettendo sul fatto che saprà dimostrare la sua estraneità, mentre il PD gli chiede un passo indietro. E su un eventuale abbandono della sua maggioranza da parte della Lega, il numero uno del Pirellone assicura invece di averne il sostegno fino a fine mandato, nel 2015, puntualizzando che Maroni ha detto non ne parliamo neanche prima di allora e poi vedremo. Ma il segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini ribadisce la posizione della Lega, che valuta anche l'eventualità di un abbinamento tra le elezioni politiche del 2013 e le elezioni anticipate in Regione Lombardia, proprio rispetto al futuro della regione. Rimane il fatto che non facciamo cadere Regione Lombardia in base a dei dubbi, dei sospetti sulle vacanze, sulle amicizie. Se emerge qualche prova, ovviamente la musica cambia e non difendiamo più niente nessuno, ma rimane il fatto che comunque l'appoggio è a tempo e ci interessa portare a casa alcuni progetti proposti dalla Lega fermi da tempo. Quindi la legislatura per voi va avanti fino al termine naturale? Difficile, in queste condizioni è difficile pensare di lavorare 3 anni così. Quindi bisogna vedere appunto quando cambieranno le condizioni anche di serenità, diciamo, rispetto a tutta la compagine. Difficile che si lavori 3 anni in questa maniera qua. Al di là delle prove, se emergessero delle prove, è chiaro che tu tronchi domani mattina, però non mi sembra che ci sia la serenità adatta per andare avanti per 3 anni così. Ecco, Formigoni ha detto che sono state mal interpretate le parole di Maroni. Maroni quando parla chiaramente, quando dice che è difficile pensare di andare avanti 3 anni in questa maniera, pensa a quello che pensano tutti. A parte il dibattito interno alla stessa maggioranza in regione e l'evolversi dei fatti, anche Maurizio Martina, segretario regionale del PD, prospetta uno scenario politico. Penso che per la Lombardia sia inevitabile immaginare un voto anticipato. Credo che il 2013 possa essere l'anno della svolta, l'anno giusto, anche perché nel centrodestra lombardo, al di là delle dichiarazioni di circostanza, inizia a maturare questa consapevolezza. Credo che così non si possa andare avanti, l'incertezza politica e comunque il tema lombardo non può essere trascinato per mesi e mesi in questo modo. Noi abbiamo sempre chiesto al centrodestra una reazione politica responsabile di fronte a questa vicenda. Abbiamo avuto purtroppo risposte minimaliste oppure grida di complotto. Il movimento che si è raccolto dietro le elezioni di Pisapia potrebbe essere un'eredità che si può raccogliere appunto concretamente. Ma se penso alla Lombardia, non c'è dubbio che l'esperienza che abbiamo fatto tutti a Milano, l'esperienza di Pisapia, di quella vittoria, è una ricchezza assoluta, un patrimonio di persone, di idee che possono fare la differenza anche pensando alla vicenda lombarda. Dopodiché noi in queste settimane abbiamo lanciato un'idea, che è quella del patto civico per il cambiamento della Lombardia, che è l'idea che si muove un po' nel solco dell'esperienza anche milanese. Formigoni si dice oggetto di ricostruzioni e attacchi giornalistici, a partire dai gossip e dalle foto delle sue vacanze fino ai duri colpi al fiore all'occhiello, la sanità regionale, che ha scatenato nuove dure polemiche contro di lui. E quindi annuncia di aver deciso di non intervenire più sulla stampa per ribattere a notizie fondate su supposizioni spacciate per fatti o circostanze vere, e che ha scelto la via della tutela giudiziale, come ha già fatto per alcuni quotidiani. Formigoni, come contraltare, ha sempre sottolineato i risultati dei suoi 4 mandati da governatore della Lombardia. Noi stiamo costruendo un buon governo del nord in Lombardia, ha detto, in Piemonte, in Veneto, in Friuli, e su questa strada vogliamo andare avanti. Sul caso della giunta lombarda interviene il primo governatore della regione, Piero Bassetti, secondo cui la crisi del formigonismo, osserva Bassetti, apre un vuoto politico di incredibile portata. Se dovesse cadere la giunta lombarda, l'unica prospettiva auspicabile sarebbe la nascita di un nuovo partito del nord. Tuttavia Bassetti auspica che Formigoni non faccia un passo indietro. Ha governato molto bene, dice, quindi deve restare al suo posto, ma propone un progetto politico nuovo. Tra 2, 3 o 4 anni l'Italia sarà sfidata a rimanere unita o dividersi, e allora occorre un nord governato bene in modo efficiente. Fare il partito del nord, augurarsi che si faccia un partito del sud e farsi carico insieme del problema dell'unità del paese. Ecco, Pisapia non sarebbe ovviamente... Esattamente, secondo me, siccome il problema non si può risolvere con i giochini centrosinistra, centrodestra, i vecchi partiti, io credo che una possibile alternativa al blocco politico che ha governato la Lombardia sia quello arancione. Quindi... che non è il centrosinistra, perché l'arancione non è il centrosinistra. Quindi lei vedrebbe bene Pisapia alla guida di questo partito del Nord? Ammesso che lui ci stia, no, non credo tanto facile pensare che lui ci stia, perché i suoi orizzonti sono, oltre che cittadini, semmai nazionali. Però certamente il movimento che lui ha creato può essere il nucleo di aggregazione di una forza di centrosinistra, obiettivamente, che possa mettere insieme dall'Emilia alla Val d'Aosta la statualità regionale del nord. Quindi anche per il dopo Formigoni questo vale? Lei pensa già a un dopo Formigoni? Sicuramente, solo che per ora diciamo il centro, il Milano è stata un'aggregazione politica con un obiettivo preciso, che era l'amministrazione del Comune di Milano. Adesso il problema è creare un blocco che si preoccupi di governare in modo aperto, come stanno facendo gli arancioni a Milano, il nord in una visione nazionale, non in una visione secessionistica. Anche secondo il direttore del Tempo, Mario Secchi, Formigoni ha amministrato la regione Lombardia meglio di altri, ma esprime dubbi sul futuro politico della regione Lombardia. Abbiamo un presidente chiaramente che è sotto la lente della magistratura, questo è agli atti, per così dire. Naturalmente, diciamo, vale la presunzione di innocenza per Formigoni come per qualsiasi altro cittadino italiano. Dopodiché però c'è la politica. E la vera domanda da porsi è: la giunta regionale lombarda può arrivare fino alla scadenza naturale della legislatura in queste condizioni? È in grado di approvare provvedimenti importanti? È in grado, parliamo della regione più ricca d'Italia, di garantire un percorso virtuoso in un periodo di crisi? Se queste sono le domande, è chiaro che un po' di dubbi emergono, perché insomma la situazione appare quantomeno problematica. Basta vedere che cosa ha detto Formigoni qualche giorno fa, cioè che in queste condizioni è difficile andare avanti. Io ritengo che debba essere fatto un chiarimento politico, e che Formigoni debba anche fare una riflessione sulla convenienza politica del mantenere in piedi la giunta o meno. Se ci sono le condizioni può andare avanti, ma se la situazione resta tale, francamente forse è meglio ricorrere alle urne. E per quanto riguarda, diciamo, l'ipotesi di un ripensamento di un assetto politico del nord? Qua i progetti si sprecano, ovviamente in periodi di grande caos e confusione emergono le più disparate idee. Io non penso che ci sia spazio per ipotesi di formazione di altri partiti autonomisti, leghisti, identitari. Io penso che debba ritornare la politica. Se Formigoni ha in mente un progetto di rifondazione del centrodestra che parte da lui, cioè valutando i fatti, insomma. Era Italia in controluce per quest'oggi 9 luglio, torniamo domani alle 13.30 su Radio 24 con un reportage di Maria Luisa Pezzali sui volontari, quelli che lavorano nei campi dei terremotati in Emilia-Romagna.